Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. L'Irlanda è una terra magica, uno di quei luoghi che pare uscito dal mondo delle fiabe e dei miti, circondato dal mare, segnato dall'incredibile poesia delle sue scogliere. Pensate al verde delle campagne di quest'isola incantata, alle meravigliose città sparse sul territorio, ai suoni, ai volti, ai colori. Il suono della lingua madre, del gaelico, pare assecondare questa magia. Sembra cogliere l'essenza di questa terra, un cocktail di bellezza e dolore che sembra impregnare ogni sillaba del gaelico. Oggi ai Magnifici Destini parliamo d'Irlanda e parliamo di una musicista che ha saputo catturare come nessun altro l'incanto della sua terra. Dici Irlanda, dici musica e ti vengono in mente subito gli U2. Giusto, per carità, Bono, The Edge e Soci sono celebrità assolute, star di livello mondiale. E il legame con la terra che li ha generati loro non lo hanno mai trascurato, anzi. Il sound del rock degli U2 però non si può certo dire che sia così legato all'isola irlandese. I rimandi sono altri e riguardano i temi, la politica, anche perché no, la cultura irlandese, nel senso più ampio. Ma il sound di Bono e Soci è sempre stato orientato verso un acido e graffiante pop rock. È invece chiaro che, se vogliamo cogliere davvero lo spirito d'Irlanda messo in musica nel panorama dello show business, dobbiamo semplicemente orientarci verso Enya. Strumenti tradizionali irlandesi insieme a chitarre elettriche, sintetizzatore e basso elettrico, vocalizzi sovrapposti in miriadi di echi che sembrano evocare paesaggi magici, a volte a riprodurre il vento che dalle scogliere occidentali dell'Irlanda va dritto verso le coste americane. Allo stesso modo la musica di Enya, così ricca di sfumature celtiche, decolla dall'Irlanda per invadere il resto del mondo. Questa è in estrema sintesi la musica di Enya, così come abbiamo imparato a conoscerla in una carriera più che ventennale, ricca di successi. Ripercorriamolo allora, questo viaggio musicale, alla ricerca dei suoi magnifici destini. Sarebbe stato molto difficile per me non fare musica nella vita. I miei genitori erano musicisti, mia madre era un'insegnante di musica, mio padre era un musicista che aveva una band e cercava di ispirarsi alla musica di Glenn Miller. Inoltre sono cresciuta in una zona dell'Irlanda dove il patrimonio musicale tradizionale era particolarmente ricco ed era davvero impossibile non venire contagiati. Oran patan harapert, mo volach in a factoren de senatinje moor, huki eit in halavuin, ha ach fo ees fo yoin. La lingua gaelica, affascinante e misteriosa, racchiude l'essenza delle antiche tradizioni celtiche. Passeggiando per Gweedore, un piccolo paese nel nord-ovest dell'Irlanda, capita di sentire parlare per larghi tratti solo questa meravigliosa lingua. Quando Enya nasce, il 17 maggio 1961, Gweedore è ancora una roccaforte dell'irlandesità più pura e profonda. È un luogo suggestivo, nel nord dell'Irlanda, vicino alla costa atlantica. Qualche dettaglio in più su questo luogo non può che aiutarci a capire meglio l'essenza della musica di Enya. Il paesino è sovrastato dalla montagna più alta della contea, l'Errigal, che sovrasta con un profilo minaccioso e sinistro l'incantevole lago di Dunleway. Intorno una miriade di vallette profonde e verdissime, ricche di laghi, su cui staziona perennemente una fitta nebbia che cela temporaneamente il profilo dei numerosi castelli circostanti. Sembra un paesaggio uscito da un romanzo di Tolkien. Non sarà un caso se la musica di Enya avrà come tema dominante proprio un fitto tessuto di richiami fantasy. Trovo che l'Irlanda abbia in sé qualcosa di sovrannaturale. Una spiritualità profonda legata a luoghi che credo siano unici al mondo, che muovono qualcosa nel profondo di chi li guarda. Chi è nato in questa terra ha una parte di questa profonda spiritualità radicata nel proprio sentire. La mamma di Enya, Baba, svolge la professione di maestra di musica, mentre il padre, Leo, oltre a suonare in una band alla Glenn Miller, come ha detto prima la stessa cantante, gestisce un pub a Mina Leice, il Leo's Tavern. Fin da piccola i genitori intrattengono lei e i suoi fratelli e sorelle cantando in lingua gaelica favole celtiche che hanno per protagonisti fate, maghi, draghi, cavalieri e sono ambientate in mondi fantastici. Alcuni dei maggiori scrittori fantasy del mondo hanno preso ispirazione dalla tradizione fiabesca popolare irlandese, anche Tolkien. I miei genitori ci cantavano canzoni popolari, ispirate a quella tradizione. È per questo che è rimasta dentro. Etna, questo è il vero nome della futura cantante, ha 4 fratelli e 4 sorelle. Anche loro coltivano la passione per la musica. Per questo motivo, e sotto questa spinta, alcuni di loro nel 1968 formano la band An Clann Az Dor Clannad, che sarà rinominata Clannad negli anni 70. E che sarà il primo magnifico destino di Enya, un destino davvero fatto in casa. Sono moltissime nella storia della musica le family band, i gruppi che nascono per unione e collaborazione di familiari e musicisti. Hanno talvolta storie travagliate e problematiche, come i mitici Jackson 5. E poi ci sono band come i Carpenters, i Moffats e soprattutto i Bee Gees, che hanno avuto il merito di segnare la storia della musica e di formare e lanciare musicisti in grado di distinguersi per brillanti carriere soliste. I Clannad, il cui nome in gaelico deriva da An Clann Az Dor, ossia la famiglia originaria di Gwydir, più che un gruppo musicale sono una stirpe di musicisti. Appartengono alla famiglia Brennan, quella di Enya, e alla famiglia Dugan, entrambe originarie del villaggio di Gwydir nella contea di Donegal, in Irlanda. Enya è ancora una bambina e respira la quotidianità del percorso musicale dei Clannad, il gruppo di famiglia formato da alcuni membri della famiglia Brennan, cioè Myra, Kieron e Paul. Suonano nella taverna acquistata dai loro genitori insieme a 2 loro zii, Padraig Dugan e Noel Dugan. Enya si aggira curiosa e attenta, tutto le parla di musica. I clienti della taverna apprezzano quel repertorio che spazia dal folk tradizionale irlandese ai Beatles, a Donovan, fino a Joni Mitchell. I had a king in a tenement castle. Lately he's taken to painting the pastel walls brown. Visto il successo riscontrato a livello locale, il gruppo decide di partecipare un po' per scherzo e un po' per divertimento al prestigioso festival folk di Letterkenny. È un grande borgo commerciale e di solito viene scelta come meta per entrare nel Donegal. Di notte invece è piena di ragazzi che la scelgono per andare in discoteca. Ospita circa 15.000 abitanti. Qui, tradizionalmente, alla metà di agosto, va in scena uno dei maggiori festival folk in Irlanda, seguito da decine di migliaia di persone. Nel 1970 i Clannad si presentano a questo festival inizialmente senza particolari ambizioni. Enya, ancora bambina e che ancora tutti chiamano con il suo vero nome, Etna, ha solo 9 anni e assiste all'esibizione in mezzo al pubblico, accompagnata dalla mamma e da una zia. Ecco, stanno per esibirsi. La canzone che avete appena sentito, Lisa, è una delle più celebri dei Clannad ed è quella che permette al gruppo di vincere un po' a sorpresa il festival di Letterkenny. Ne parla Padraig Dugan, uno dei leader della band e in futuro grande amico di Enya. Ho scritto quella canzone su un tavolo del pub di Leo, il padre di Enya. Era influenzata dai Beatles ed era un oggetto strano, una specie di pop song in gaelico. Un misto che proprio grazie ad Enya, al suo approccio molto originale, sarebbe diventato estremamente popolare. Comunque già all'epoca ai giovani irlandesi piaceva molto quell'esperimento. Il premio per il vincitore consiste nella possibilità di incidere un disco. Detto fatto, nel 1973 esce il loro primo album intitolato semplicemente Clannad, che però non riscuote un grosso successo di pubblico, sia perché suona come un lavoro un po' troppo genuino, sia perché il genere, il folk irlandese, seppur con venature pop, all'epoca non è molto conosciuto al di fuori dei confini dell'isola. La quasi totalità dei brani dell'album è cantata in gaelico e da un punto di vista musicale vi è una netta predominanza dell'uso di strumenti tradizionali, su tutti l'arpa celtica. Non mancano però pezzi con il mandolino, l'armonica, il flauto e lo zufolo di latta, strumento al quale solo gli irlandesi riescono a dare un'intonazione particolare e il cui utilizzo richiede una particolare abilità. La carriera dei Clannad è iniziata con quell'album e devo dire che il loro decollo è stato essenziale per la mia carriera, perché mi ha dato stimoli, dato che c'erano i miei fratelli all'interno della band. È stata una cosa naturale entrare a farne parte. Nel 1975 per i Clannad arriva il momento del primo tour fuori dalla loro patria. Vanno a suonare in Germania e la risposta del pubblico è estremamente positiva. Finalmente i Clannad sbarcano in Europa. Il secondo album si intitola con poca fantasia Clannad 2, poi esce Dulmon, forse il migliore fra gli album fino a quel momento prodotti. Nel 1978 esce anche il primo live intitolato In Concert, che rappresenta il culmine del primo periodo della carriera dei Clannad ed è considerato uno dei migliori live in assoluto del folk irlandese. Nel 1979 Enya ha finalmente compiuto 18 anni. In questa prima parte della sua vita si è dimostrata una studentessa diligente ed efficace presso il Loretos College di Milford e ha messo in luce un particolare trasporto per le materie letterarie e artistiche. Ha studiato intensamente il pianoforte, ha compiuto studi di musica classica. È pronta per entrare nei Clannad come vocalist. Mi sono unita ai miei fratelli nei Clannad nel 1979. Sono rimasta solo 3 anni, ma sono stati 3 anni intensi che mi hanno dato tantissimo. Io amo i Clannad, tuttora li seguo, e penso che rappresentino davvero l'Irlanda nel mondo. L'ingresso di Enya dà ai Clannad un'ulteriore iniezione di talento, perché la ragazza è davvero dotata e tutti lo capiscono sin dalle prime prove fatte insieme. Con i Clannad Enya pubblica gli album Cran Ull e Fum, nei quali la stessa Enya canta e suona le tastiere. È forse il vertice artistico della stessa band, mentre per Enya è il trampolino di lancio verso il grande e travolgente successo. Oggi ai Magnifici Destini parliamo di Enya, straordinaria rappresentante della musica celtica e della cultura irlandese nel mondo, che grazie alla sua raffinata fusione tra elementi pop e tradizione gaelica è riuscita a portare in tutto il mondo un piccolo assaggio della magia dell'Irlanda. Vi abbiamo raccontato come il primo grande banco di prova per il talento di Enya sia stato la band dei Clannad, fondata dai suoi fratelli, nella quale la cantante rimane 3 anni, dal 79 al 1982. Con questa esperienza arrivano i primi successi e la convinzione di poter coltivare ambizioni molto importanti. Da questa avventura, però, arriva anche un incontro decisivo e determinante, quello con il produttore Nick Ryan, il secondo magnifico destino di Enya. Ho conosciuto Nicky quando ero ancora molto giovane. Frequentava casa mia e i miei fratelli, supervisionava e arrangiava i lavori del gruppo. Senza il suo consiglio, non credo che avrei mai intrapreso una carriera da solista. Enya aveva una voce splendida. Si vedeva che c'era qualcosa di diverso nel suo modo di interpretare i pezzi. Nel 1982 le ho proposto di trasferirsi ad Artén, una piccola cittadina a nord di Dublino, con me e mia moglie Roma. Ryan fa una cosa assolutamente inusitata. Rapisce Enya dal suo ambiente familiare nel quale ha sempre vissuto e la porta al debutto con Touch Travel, una compilation rilasciata solo nel formato musicassetta che contiene musica di diversi artisti. Sono presenti 2 brani strumentali di Enya che utilizza ancora il suo vero nome di Etna Ni Brennan. Si tratta di The Solar Wind, brano per piano e sintetizzatore, e Miss Claire Remembers, solo piano. Di questa compilation vengono stampate purtroppo solo 5.000 copie. Ecco il passaggio fondamentale per la carriera artistica di Enya. Uscire dagli stretti confini della musica di famiglia, confrontarsi con altri artisti, mettere in gioco il proprio talento. Il terzetto costituito da Enya, Nicky Ryan e la moglie Roma forma un vero e proprio gruppo di lavoro affiatato e indissolubile. Roma Ryan ha moltissime conoscenze tra gli artisti britannici e riesce così a ottenere l'incarico di scrivere per il regista David Putnam la colonna sonora per il film The Frog Prince nel 1985. Roma viene a sapere che il regista stava cercando un artista per comporre le musiche del film e gli invia alcuni demo. Su quelle cassette, per la prima volta, Etna utilizza il nome Enya. La cantante in prima persona si occupa della composizione insieme a Roma, mentre Nicky produce e le loro musiche spopolano. Nel 1986 il terzetto viene ingaggiato per realizzare la colonna sonora della serie TV della BBC The Cells. L'album viene pubblicato l'anno successivo con il titolo Enya, passando inosservato al grande pubblico, nonostante pezzi di assoluto valore come la opener The Cells. Certamente per il gruppo l'entusiasmo è messo a dura prova. Come spesso nel mondo dell'arte, è nei momenti di apparente fallimento che succede qualcosa capace di ribaltare completamente la realtà. L'album infatti transita sulla scrivania di Rob Dickens, allora niente meno che boss della Warner Music UK, che decide di scritturare tutto il terzetto. È così che nasce il vero debut album di Enya, Watermark. Watermark è un album straordinario. Per realizzarlo abbiamo lavorato in studio per mesi, curando tutto nei minimi dettagli. È un album innovativo, che dice delle cose nuove e soprattutto usa un linguaggio nuovo. Dice bene Nicky Ryan, e parte del merito di questa carica innovativa è indubbiamente sua. Ryan fa di più, decide di esasperare l'uso delle sovraincisioni. In pratica armonizza le parti vocali come se avesse davanti un coro e poi fa cantare a Enya fino a 100 esecuzioni delle diverse linee melodiche. Fuse insieme, equalizzate con riverberi estremi e studiate ad hoc dal produttore, la voce di Enya assume un effetto davvero magico, quasi fosse parte di un rituale, di un incantesimo che rimanda inevitabilmente alle leggende ancestrali gaeliche. Questo lavoro straordinario sulle parti vocali finisce per essere l'ingrediente principale di un cocktail molto particolare. Strumenti tradizionali come arpe e flauti, elementi pop rock, le voci di Enya. L'effetto è ipnotico, come nel singolo trainante Orinoco Flow o nella suggestiva Evening Falls. For a moment I stray, then it holds me completely. Close to home I cannot say, close to home. Orinoco Flow, brano noto anche come Sail Away, raggiunge il vertice delle classifiche inglesi e vende 8 milioni di copie. L'album conquista il platino in ben 40 paesi. Il successo del primo album viene bissato dal secondo disco, Shepherd Moons, rilasciato nel 1991, che raggiunge i 10 milioni di copie vendute. Anche e soprattutto grazie a singoli molto easy listening come Caribbean Blues. Nell'album spicca anche il pezzo Book of Days, utilizzato nella colonna sonora del film di Ron Howard Cuori ribelli del 1992. Cosa ancora più importante, con questo album Enya vince il primo Grammy nella categoria Best New Age Album. Quel premio ha significato molto per me e per Nicky e per Roma. Avevamo lavorato duramente, ma soprattutto eravamo riusciti a portare al grande pubblico un pezzo delle tradizioni del nostro paese, semplicemente mescolandole con una tradizione più pop che rendesse la confezione solo un po' più appetibile. Eravamo felici. È stato un momento davvero importante della nostra vita. La carriera di Enya, da quel momento in avanti, è un susseguirsi di riconoscimenti e di grandi successi. Solo per citare i più importanti si va dal secondo Grammy nella stessa categoria, conquistato pochi anni dopo con l'album The Memory of Trees, fino alla prima raccolta, Paint the Sky with Stars, contenente i suoi più grandi successi. Il quarto album, A Day Without Rain, venderà 15 milioni di copie in tutto il mondo e le porterà il terzo Grammy. Altro momento determinante però è rappresentato dalla canzone Only Time, che nel 2001 viene scelta come simbolo del drammatico attentato alle Torri Gemelle. Una musica così eterea, fantastica, e ora pronta alla consacrazione all'interno di una grande saga cinematografica. Enya riceve la telefonata di Peter Jackson, regista neozelandese. Lui sta progettando il film Il Signore degli Anelli e vuole assolutamente che la musicista si cimenti nella colonna sonora. È così che nasce il pezzo Made Be, che verrà nominato per il Golden Globe Award e per l'Oscar, e otterrà altre nomination importanti. Made Be. Nicky Ryan, sornione, conserva un sorriso sotto i baffi pensando al momento in cui ha forzato la mano sottraendo la giovane Enya ai Clannad dicendole che ha la stoffa della solista. Ci ha visto giusto, nient'altro, ora che Enya è a oltre 20 anni dal debutto, una delle cantanti più amate e seguite nel mondo. C'è un aspetto però che ci permettiamo di sottolineare come una piccola ombra nella sua straordinaria carriera. 70 milioni di dischi da un lato, ma alla voce concerti la cifra è ancora zero. Enya non si è mai esibita dal vivo, nemmeno una volta. Una mancanza che, lei stessa giura, prima o poi dovrà essere colmata. Non escludo di fare presto un concerto. Bisogna solo trovare la formula giusta. Più passa il tempo, più la gente si aspetta miracoli. Non vogliamo deludere. Che magnifico destino quello di Enya, una delle poche cantanti irlandesi che hanno venduto più dischi nella storia della musica. Eppure ha sempre mantenuto un atteggiamento estremamente schivo e riservato. Interviste poche e selezionate, mai un gossip, un pettegolezzo, una voce fuori posto. Concerti e tour, zero. Dopo il debutto e la rapida ascesa, le uniche persone di cui si conosce pubblicamente l'amicizia con Enya sono Nicky Ryan, produttore e arrangiatore dei suoi successi, e la moglie Roma. Da quel momento i contatti noti della musica irlandese con il mondo esterno sono stati sempre meno. Proprio per questa sua natura a dir poco riservata, non è semplice trovare tanti magnifici destini che incrocino la vita della cantante irlandese. È tuttavia interessante sottolineare un aneddoto che ha legato in qualche modo Enya a un'altra cantante e artista irlandese molto nota nel mondo. So young then, we thought that everything we had passed. Molti di voi avranno riconosciuto la voce. Si tratta di Sinéad O'Connor. È un po' più giovane di ENIAC, però esordisce come solista più o meno negli stessi anni, nel 1987. L'album di debutto si intitola The Lion and the Cobra e questo è il primo singolo estratto da quell'album, Troy. When do the light die? You will rise. The Lion and the Cobra vende 2.500.000 copie. Niente male come debutto, no? Molti addetti ai lavori lo considerano tuttora come uno dei migliori 50 album degli anni 80. Ed ENIA? Cosa c'entra in tutto questo? Beh, tra le qualità che vengono riconosciute alla vocalist irlandese c'è quella di portare fortuna. E The Lion and the Cobra è un album fortunato. La traccia 6, dal titolo Never Get Old, vede Sinéad O'Connor duettare proprio con ENIA. La voce che sentite recitare questi versi a inizio brano appartiene proprio ad ENIA, che legge in gaelico un brano della Bibbia, il Salmo 91:11-13. Una presenza che si manifesta a distanza. Durante la registrazione del brano e del disco di Sinéad O'Connor, le giovani artiste non si vedono nemmeno perché ENIA registra la sua parte senza spostarsi dagli studi del fidato amico Nicky Ryan. Forse ENIA porta effettivamente fortuna alla O'Connor, visto il successo dell'album. Poi, disco dopo disco, Sinéad andrà smarrendo l'efficacia artistica del debutto, ma ritroverà ENIA in studio di registrazione nel 1997, per le registrazioni di Every Nation, album che raccoglie omaggi di vari artisti alla principessa Diana. Sinéad ed ENIA sono entrambe presenti. Sì, è vero, ho un carattere schivo. Non amo la fama e non credo che vada sempre di pari passo con il talento, anzi. Nonostante questo, mi è sempre piaciuta l'idea di collaborare con altri artisti, di realizzare qualcosa anche di diverso da quello che faccio di solito. In effetti, oltre alla O'Connor, ENIA ha prestato la sua voce, le sue tastiere e il suo intuito compositivo ad altri artisti irlandesi come Christy Moore o inglesi come Terry Reid. Il meglio di sé però ENIA l'ha dato e continua a darlo nella sua straordinaria carriera solista. Pur completamente orfana della dimensione live, la parabola artistica di questa musicista irlandese ha seguito una traiettoria unica e irripetibile. Il suo sound è diventato riconoscibile al primo ascolto e il suo stile si è codificato quasi in un genere a sé, sospeso tra il folk, un'atmosfera new age e delle composizioni alla Michael Nyman. È il pregio dei grandi artisti, fedeli a se stessi e mai ripetitivi. ENIA l'ha saputo fare, catturando con le sue note il cuore profondo dello spirito d'Irlanda.